ecco qua. Finalmente l'ho raccontato. Ma non mi sento mica tanto sollevata. Forse perché in realtà la cosa che più mi manca è quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa beffe delle conseguenze tipica di quei nostri 17 anni. Quando ci sembrava che il mondo non potesse fare davvero così paura. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. 16:08 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Sabato sera sono stato al cinema, quello delle multisale, all'ultimo spettacolo. L'ultimo spettacolo dei cinema delle multisale non sono le 22:30. Ce n'è uno ancora dopo, perlomeno questo accade nelle grandi città, a Milano. Le grandi città, mi sembra esagerato avendo dei romani dall'altra parte in regia. Però mi dice Vittorio Mussini, anche a Voghera ci sono i multisala che fanno fino a l'una di notte. Perfetto, ok. È un'esperienza andare al cinema a l'una di notte. Primo perché sei da solo come un cane. Secondo perché c'è solo una signorina alla cassa. E terzo perché le multisale non cominciano lo spettacolo 25 minuti dopo. Sapete sta roba insoffribile per cui tu arrivi e te lo scrivono, comincia 25 minuti dopo. Però andare in quel caso è meglio, proprio perché non cominciando 25 minuti dopo tu puoi sederti al tuo posto quando è il momento giusto, no? E non entrare 25 minuti dopo quando è già tutto buio, perché ovviamente sono mica scemi, fanno tutto buio come se cominciasse il film e poi tu scusi sono là. In queste multisale c'è una cosa da fare. Dopo che hai comprato il biglietto, è guardare il tuo posto sul biglietto. Di solito c'è la fila e il numero del posto. Ed è l'una di notte. Quindi già ti senti un po' un cretino che sei a l'una di notte in un cinema mentre la gente fuori dorme. Ma se poi siete in 12, allora un po' che vale dove ci siede dove vuole, un po' soprattutto che lo guardi la fila con su scritto il numerino, giusto? Visto che è segnato. Niente da fare. 5 minuti prima del film arriva un signore con la moglie che mi dice in maniera molto garbata: si deve spostare. E già respiri, perché io l'ho guardato la fila con il numerino e so che sono alla fila F, posto 13. Però mi sposto, che mi frega, tanto il cinema è mezzo vuoto. Ovviamente dopo 2 minuti arriva il signore che è seduto al posto in cui mi sono seduto. E quindi dico al tizio: scusi, lei è sicuro di essere alla fila F? Sicuro, guardi, fa vedere, fila F, posto 13. Guardo la sala e la sala era la 8, mentre noi stavamo nella sala 7. Ora, non c'è veramente nessun problema, solo i modi. Che se tu arrivi e dici si deve spostare è una cosa, se tu invece dici mi scusi forse siamo lì è un'altra. Questo per il messaggio a quel signore con i baffi e gli occhiali che era al cinema a l'una di notte sabato sera. 800240024 349-238-6666, perché non è del signore con i baffi e gli occhiali che vorrei parlare oggi, perché sabato sera dopo il film, quindi vi parlo verso le 2:30 del mattino, sono tornato a casa e ho guardato il mio profilo Facebook, chi lo sa, ha idea, è praticamente una malattia. E ho trovato il messaggio di una ragazza che ascolta il programma. Era un messaggio che riguardava la puntata che era andata in onda il giorno prima, venerdì, in cui parlavo della sindrome di Declan Rambeau, sull'idolatria, idolatrare dei personaggi o delle persone, per cui si fanno delle cose a volte che sono sconsiderate o sono semplicemente sbagliate. L'argomento di quella mail era grosso modo quello, più tardi ve la leggerò, però in realtà il messaggio era un altro. Il tema fondamentale era quello della perdita dell'innocenza. Le cose più importanti sono le più difficili da dire. Sono quelle di cui ci si vergogna, perché le parole le immiseriscono. Le parole rimpiccioliscono cose che finché erano nella vostra testa sembravano sconfinate e li riducono a non più che a grandezza naturale quando vengono portate fuori. Ma è più che questo, no? Le cose più importanti giacciono troppo vicino al punto dove è sepolto il vostro cuore segreto, come segnali lasciate per trovare un tesoro che i vostri nemici sarebbero felicissimi di portare via. E potreste fare rivelazioni che vi costano un sacco per poi scoprire che la gente vi guarda strano, senza capire affatto quello che avete detto, senza capire perché vi sembrava tanto importante da piangere mentre lo dicevate. Ecco, questa è la cosa peggiore, secondo me. Quando il segreto rimane chiuso dentro, non per mancanza di uno che lo racconti, ma per mancanza di un orecchio che sappia ascoltare. Avevo 12 anni, quasi 13, la prima volta che vidi un essere umano morto. Successe nel 1960, tanto tempo fa, anche se a volte non mi pare così lontano. Soprattutto la notte, quando mi sveglio da quei sogni in cui la grandine cade nei suoi occhi aperti. Questo è il la prima cosa che mi è venuta in mente quando, dopo aver letto quella mail, ho pensato alla perdita dell'innocenza, al fatto che succedono ogni tanto degli avvenimenti, succedono soprattutto quando si è bambini o si è ragazzi, che sono più grandi di noi, che sono avvenimenti che spostano per un attimo la prospettiva sul mondo e sulla vita, e poi a guardarli da lontano, guardarli dopo, anni dopo, ci fanno capire che quei momenti lì ci hanno fatto un po' perdere la nostra innocenza. 800240024 349-238-6666. Il pezzo che vi ho letto è l'introduzione praticamente di un libro di Stephen King che si chiama Stagioni diverse, e ogni stagione ha un racconto. Questo racconto si chiama Il corpo, però tutti lo conoscono come Stand by Me, che poi è stato anche tradotto in un film. Il capitolo però è una stagione ed è proprio L'autunno dell'innocenza. 800240024 349-238-6666. Oggi vorrei proprio sentire quelle piccole storie lì, quelle storie di piccoli avvenimenti o grandi avvenimenti che hanno cambiato un pochettino l'indirizzo della vostra vita, che vi hanno fatto guardare da fuori, vi hanno fatto soprattutto scoprire qual era il vostro limite. Prima con Tiziano ne parlavamo di questa cosa, e lui, che come tutti di là in regia peraltro ha fatto gli scout, mi raccontava di quella volta in cui durante un'escursione erano in cinque e si sono persi, diluviava, era buio e alcuni di loro sono andati in avanscoperta, loro sono rimasti invece, lui insieme ad altri due, sono rimasti da soli in montagna sotto la pioggia, convinti che gli altri sarebbero tornati a dirgli che avevano ritrovato il campo. Questa cosa non è avvenuta, hanno sentito un colpo, uno sparo nella notte e quindi lì hanno pensato di tutto, e quando sono tornati i tre non erano ancora arrivati. Li hanno ritrovati poi, ovviamente era stato tutto a posto, però in quel momento lì, anche da come me lo raccontava Tiziano, si è capito che, come dire, quella tua serenità sul mondo, quella sensazione che il mondo sia come lo vuoi e che sia facile come ti sembra, probabilmente un po' ti passa. 800240024 oppure 349-238-6666. Succede effettivamente spesso con gli elementi che sono più forti di noi, no? Tipo con il mare, ad esempio, quando andavo a prendere le stelle marine con Filippo all'isola d'Elba, una volta col canottino ha cominciato a soffiare il vento un pochettino più forte e inesorabilmente ci stava mandando al largo, e tranquillamente saremmo arrivati al largo se non ci fosse stato un signore che ci rimorchiava con il suo gommone. Ecco, quelli sono i momenti di cui vorrei parlare oggi, i momenti in cui ti sembra che la tua vita potrebbe cambiare, poi non cambia, però la guardi in maniera diversa. 800240024 oppure 349-238-6666. Per esempio Emanuele su Facebook scrive: io ne ho avuti due di quei momenti. A 5 anni all'asilo, la moda era prendere lo scivolo al contrario, ma quando ti spingono, prendi lo spigolo e sono 7 punti di sutura in fronte, la cosa un pochettino cambia. E poi un'altra è in quinta liceo, ho bigiato la scuola con un amico neopatentato e la mattinata è finita con l'auto ribaltata in un fosso, 18 anni fa, mia madre me lo ricorda ancora, circa ogni mese. 800240024 349-238-6666, perché la perdita dell'innocenza invece può venire anche così. Caro Matteo, ti volevo raccontare una cosa riguardo la sindrome di Declan Rambeau e riguardo all'idolatrare qualcuno. Non so se ti interessa, ma io ancora oggi quando ci ripenso mi sento una criminale. Te lo racconto ugualmente. Quando avevo 17 anni, avevo un'amica, una compagna di classe. Lei viveva all'ultimo piano di un palazzo e si innamorò perdutamente del suo dirimpettaio. Lui conviveva con una ragazza. Ogni giorno spiavamo quello che accadeva nella sua casa. Ci facevamo piccole piccole e ci rannicchiavamo in un angolo sul balcone, per paura di essere viste. Dopo un po' di tempo ci mettemmo a pensare come attuare un piano per poter avvicinare questo ragazzo. Ma tutti i tentativi fallirono. Passeggiavamo avanti e indietro sotto il suo portone, facevamo lunghi giri intorno al vicinato, ma niente. La mia amica ormai aveva perso le speranze, ma io, che invece mi ero appassionato alla causa della mia compagna, attuai un piano per piombare prepotentemente nella vita del fascinoso vicino. Presi carta e penna e scrissi una lettera d'amore indirizzata alla ragazza di lui. Una lettera in cui un presunto amante la implorava di lasciare il suo uomo per unirsi a lui alla luce del sole. Cercai addirittura di scrivere in maniera credibile, cioè di assumere una calligrafia che potesse essere del tutto adulta e quindi priva di ogni fronzolo adolescenziale fatto di cuoricini al posto delle i e di vocali che sembrano palline da ping pong. Con tutto il coraggio dei nostri 17 anni, riuscimmo tramite gli elenchi telefonici a sapere il cognome di questa persona, ad infilarci nel portone di casa e a imbucare la lettera nella cassetta della posta. Dopo 2 giorni eravamo di nuovo in postazione sul balcone. Ci eravamo anche attrezzate con un binocolo, un binocolo che io avevo trovato nell'uovo di Pasqua, quando avevo 8 anni. La scena fu epica. Purtroppo non potevamo sentire le parole dei due, ma vedemmo un ragazzo agitare le braccia e camminare avanti e indietro e sventolare in faccia alla ragazza in lacrime un foglio. Dopo circa un mese capimmo che avevamo scatenato l'esatto opposto di quello che volevamo. Cioè, lui era sparito e lei era rimasta nell'appartamento. A distanza di anni mi sento ancora in colpa per aver scatenato un evento simile, ma quello che più mi lascia senza parole è pensare a come la ragazza si sia sentita e in che modo abbia mai potuto spiegare al suo ragazzo di essere davvero ignara di tutto. Ecco qua, finalmente l'ho raccontato, ma non mi sento mica tanto sollevata. Forse perché in realtà la cosa che più mi manca è quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa beffa delle conseguenze, tipica di quei nostri 17 anni, quando ci sembrava che il mondo non potesse fare davvero così paura. If heaven and hell decide that they both are satisfied and illuminate the nose on their vacancy signs, if there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. I'll follow you into the dark. Le cose che ci travolgono spesso accadono quando siamo bambini. Quando ancora non ce ne domandiamo il perché, semplicemente le viviamo. Poi succede una cosa di solito traumatica, non per forza tragica, però grossa. Una cosa che ci mostra quanto il mondo sia più grande e più pericoloso di quello che pensavamo. Eravamo in 3 quando abbiamo dato fuoco al garage di casa mia. Io avevo 14 anni, mio cugino Carlo ne aveva 17 e il suo amico Pietro pure. Erano gli anni in cui avevamo scoperto il fuoco. Perché vederlo che si accende sotto la pentola per far bollire l'acqua è una cosa, ma scoprire che il fuoco lo si può creare con un accendino e una bottiglia di alcol è tutta un'altra. La prima cosa che cominciammo a fare fu dare fuoco ai formicai, con la scusa che le formiche danno noia, anche se sinceramente non ho ancora capito che tipo di noia possano dare, visto che l'unica cosa che fanno è camminare. Non pungono, non mordono, non sporcano, camminano. Stop. Eppure da qualche parte nella nostra cultura insetticida c'è la convinzione che le formiche possano darci fastidio. E così con la supervisione di mia zia iniziammo a riempire i formicai di alcol e poi stavamo lì a osservarli bruciare lentamente. A quel punto però il richiamo del fuoco era troppo forte e da lì a farlo diventare un gioco il passo fu molto breve. Un pomeriggio Pietro si presentò a casa di mio cugino con un set completo di 10 macchinine da rally. Erano i tipici modellini che si compravano in cartoleria e che i genitori regalavano ai figli maschi come premio per qualcosa, o anche solo come pensiero la domenica mattina, quando compravano il giornale. Quando li vidi andare verso il garage con l'alcol e le macchinine, capii subito che c'era in ballo qualcosa di molto pericoloso, e quindi di molto bello. Mi misi le scarpe e scesi con loro. Casa dove ancora vivono i miei genitori è su 2 piani. Al primo ci vivevano gli zii e i cugini, al secondo ci stavamo noi. La casa ha un piccolo cortile. Sul retro mio padre e mio zio fecero costruire 2 box, di quelli prefabbricati, per poterci mettere le auto. In pochi anni però diventarono dei magazzini pieni di tutta quella roba che in casa non si tiene. Ma che non si sa mai, no? Non si ha mai il coraggio di buttare via perché, chissà mai, può sempre tornare utile. In inverno il box di mio zio diventava una specie di sala giochi. Io e mio cugino ci giocavamo a pallone, a tennis, a basket, costruivamo oggetti strani, ci facevamo le sedute spiritiche, insomma, tutte quelle cose che si fanno a 16 anni e che non si possono sempre raccontare ai genitori. Quel giorno, il gioco che non si poteva raccontare era la pista di fuoco. Versammo sul pavimento del garage 2 strisce di alcol lunghe più o meno 1 metro, a distanza di 10 centimetri l'una dall'altra, e le accendemmo con un fiammifero. Il fuoco era alto 30 centimetri, ma si consumava in pochi secondi perché l'alcol bruciava velocemente. Il tutto consisteva nel lanciare la macchinina in mezzo alle 2 strisce di fuoco e farla uscire dall'altra parte, senza che fosse troppo bruciata. I primi giri andarono lisci, eravamo molto attenti e il lancio delle automobiline era la cosa più eccitante che avessimo mai fatto. Il fuoco però si spegneva troppo in fretta, quindi iniziamo a buttare quantità di alcol sempre maggiori sul pavimento del garage, che nel frattempo si era fatto completamente nero. Ad un certo punto, come ci si può aspettare, qualcosa non funzionò come andava. Alcune gocce di alcol finirono su un pezzo di stoffa, forse una tenda, che copriva degli scaffali, e in un attimo tutto prese fuoco. Tutto. Aprimo la saracinesca e schizzammo fuori cercando di spegnere il fuoco con la canna dell'acqua, ma in un attimo bruciarono il tetto, poi le pareti, e il fuoco si propagò anche al box di mio padre, che fortunatamente era vuoto. I pompieri ci misero 10 minuti ad arrivare e spensero tutto in un paio d'ore. Io e mio cugino Carlo fummo cazziati come mai più nella nostra vita, ma la cosa più terribile fu che per circa un'ora non si seppe nulla di Pietro, l'amico di mio cugino. Lo ritrovarono un'ora dopo, in casa sua, che faceva i compiti serenamente, come se niente fosse successo. Nel gran casino era scappato, e noi non ce ne eravamo accorti. Ecco, in quell'ora lì, mentre guardavo il garage che bruciava insieme a mio cugino, con le nostre mamme che cercavano di capire dove fosse Pietro, ecco, in quei 60 minuti, io per la prima volta capii che il mondo era meno semplice di quanto mi sembrasse. E anni dopo compresi che quel giorno lì la mia innocenza era svanita. La montagna, il fuoco e l'aria, più o meno sono questi gli elementi che quando c'hai 16 anni, ma anche quando ne hai 25, ti fanno capire che il mondo non è così facile e semplice come ti sembrava. Lisa mi scrive: io e mio cugino nel bagno di mia nonna con l'accendino del nonno sulle tende per vedere se prendevano fuoco. Beh, prendevano fuoco, bel rogo, in effetti le tende bruciavano, poi siamo scappati sotto il loro lettone. Benedetto scrive: il momento, ecco vedi, per lui è un'altra cosa, il momento che più ricordo come la soglia della vita adulta non è stato un trauma, bensì quando ho smesso di fare pipì a letto, è stato a 5 anni ed è stata una tale conquista che mi ha convinto che ogni cosa fosse possibile. 800240024, il momento in cui avete capito che l'innocenza non c'era più, il momento torna dopo la borsa. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto ci sono dei palazzi. I palazzi di una città, anzi è la via di una città. È una foto scattata però da un piano alto. A giudicare dai palazzi di fronte può essere un 2 3 4 5. Potrebbe essere il sesto o il settimo piano. È il tramonto, direi. Potrebbe anche essere l'alba perché il cielo è completamente rosa. Però è più il tramonto a giudicare dalle macchine che ci sono per strada. Ed è una via abbastanza trafficata. Ci sono dei palazzi costruiti più o meno negli anni 70, forse 80. Sono abbastanza brutti, sono abbastanza anonimi i palazzi di fronte. Quindi potrebbe essere una città qualunque, una città di provincia o una città del nord, del sud, del centro. È veramente... non si capisce esattamente dove sia. A giudicare dal colore del cielo, però, probabilmente... è sicuramente stata una giornata tersa, di quelle in cui c'è il vento forte che spazza, per cui alla fine c'è un rosa così forte, così intenso. Poi si alzano gli occhi dopo aver visto tutti quanti i palazzi di fronte e ci sono degli alberi che sembrano più dei pini marittimi, quindi è chiaramente o al centro o al sud. E poi, all'inizio non si è notato, si sposta lo sguardo verso la sinistra e c'è, chiaramente inconfondibile, la cupola di San Pietro. Claudia De Luca, 40 anni. Ci ho messo un anno a trovare casa, però adesso io sono qui. L'altro giorno sono stato ad una mostra, solo perché me l'ha consigliato un amico e perché era gratis, lo ammetto, di un fotografo che si chiama Basilico, chiaramente Tiziano prima lo conosceva, io invece l'ho scoperto quel giorno lì, che fotografa solo città, giusto? Sono foto di architettura, di città per lo più deserte. Mi è venuto in mente perché guardando questa foto, con tutto il rispetto per Basilico e per Claudia che l'ha scattata, ricorda una di quelle foto lì. La mostra è abbastanza interessante, tutta dedicata a Istanbul, e le fotografie sono proprio riguardo alla città, i quartieri, i tetti della città. Però poi c'è una saletta in cui c'è un mini documentario in cui lui, intervistato, spiega che ha fatto semplicemente la cosa che fanno tutti, cioè a una certa età ha preso in mano una macchina fotografica, perché dice: non ho mai conosciuto nessuno che non abbia mai scattato una foto in vita sua. E voi dove siete? Si chiama questa piccola rubrica che stiamo creando, ha uno spazio anche sul profilo Facebook, perché voi scattiate una foto del posto in cui siete, del posto in cui state più spesso o in cui vorreste essere, e la mandate al profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui. Siamo arrivati attorno alle 150. Vittoria, boh, fa una faccia, come dire, probabile, ma credo di più, però credo qualcosa di più. Andate a vederle sul profilo, anche se non siete amici potete vederle. Matteo Caccia Io Sono Qui, entrate nell'album E Voi Dove Siete. 800240024 oppure 349-238-6666. Silvio da Saronno: ciao, io a 7 anni aiutai mia mamma in giardino a tagliare l'erba. Mio papà tornò dal lavoro, per mostrargli come fossi bravo, corsi e inciampai nel rastrello a baffi, caddi sopra e mi si infilò nel ginocchio. Ricordo ancora mio papà che con una grande prontezza me lo tirò fuori e poi andammo all'ospedale. Fortunatamente un solo punto e un mese di gesso. Il rastrello non aveva danneggiato nulla. 800240024 349-238-6666, il momento in cui a posteriori o anche in quel momento lì avete capito che un pochettino la vostra innocenza ve l'eravate giocata. Andiamo a Genova da Luca. Pronto, Luca? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benone, tu? Bene, ma sei in un asilo? No, davanti a una scuola e sto recuperando la bambina. Ah, ok. È già uscita? L'hai già presa? No, deve ancora uscire, ma tengo d'occhio l'uscita. Ok, mi raccomando. Non mi distrarre. Luca, raccontami quando hai capito che il mondo era un pochettino più cattivo di come sembrava. Quando stavo andando a fare il bagno, come al solito, in un solito posto dove andavo sempre, c'era una mareggiata bella grossa. Dov'è il posto? Mi sono buttato, Corsica. In Coca. C'era una mareggiata bella grossa e prima che me ne rendessi conto mi ha tirato in un punto dove si incrociavano due correnti e mi stavano tirando sotto. Se non si fosse buttato un ragazzo del luogo con pinne windsurf, mi ha riportato su e mi ha praticamente ributtato a riva, non sarei qui a raccontarla. Quanti anni avevi, Luca? Non ero mica giovinetto, ne avevo quasi 28, 30. Ah, ok, non eri un ragazzino. No, però sai come si dice, si cresce tardi, no? Ah, certo. Sono sempre... Ha voglia? Beh, chiaramente, quindi manca solo che le donne invece a 30 anni ne hanno 50. No. Come mente, dico, come testa. Non andiamo per l'unico. Quanti anni ha tua figlia, Luca? 8. Ok, è arrivata? No, è ancora lì che deve uscire. Va bene. Ho capito che devo parlare. Ti lascio a raccoglierla. Grazie Luca, buona giornata. D'accordo, ciao, alla prossima. Andiamo a Pavia da Carlo. Pronto Carlo? Pronto, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, insomma, abbastanza bene. Che cosa c'è che non va, Carlo? Io ho perso mio papà a 15 anni in una sala di Tata Fontana. Ah. E quindi penso che a posteriori, quel giorno... ha cambiato la mia vita naturalmente. Tu quanti anni avevi tu e quanti anni aveva lui? 15 anni. Mio papà aveva 42 anni. E quindi... Senti, ma Carlo... Ho perso l'innocenza sicuramente, ne sono accorto dopo naturalmente. Sì, certo. Da ragazzo spensierato, da ragazzo con tanta voglia di giocare, di divertirmi. Così. Guarda, tra l'altro ho la sensazione che quell'occasione sia stata una sorta di perdita dell'innocenza, non solo per te probabilmente. In tanti l'hanno scritto. Ti ricordi dove eri quando ti è arrivata la notizia e chi te l'ha data? Mi ricordo tutto come se fosse ieri. Cioè? Io andavo ancora a scuola quel pomeriggio, facevo il pomeriggio, mio padre, la mattina, poi non l'ho più visto. Sono tornato la sera verso le 7:30, è venuto a casa nostra il medico, che era stato avvertito dalla questura, sì, dicendoci che in Piazza Fontana era scoppiata una caldaia, che all'inizio si parlava di una caldaia, sì, certo, dicendo che mio papà era tra i feriti. Siccome noi abitiamo non proprio Pavia, un paesino provincia di Pavia, Maderna si chiama, sì, abbiamo telefonato, mia mamma, allora 38enne, ha telefonato a mio zio che abitava a Milano dicendogli che era preoccupatissimo perché aveva sentito dal medico, poi abbiamo sentito dalla radio che c'era un casino pazzesco. Quindi scusami, prima ve l'ha data a metà, diciamo, la notizia al medico e poi ci ha pensato lo zio? Il medico, mio zio, è andato a Milano. Chiaro. Ha fatto il giro degli ospedali e è arrivato qua dei bene fratelli, non l'ha neanche riconosciuto, l'ha riconosciuto dopo perché l'hanno fatto rientrare un'altra volta. Certo. Cioè, guardi che chi sta cercando e fa. Tu quanti anni hai adesso, Carlo? Io ne ho 56. Ne hai 56. 41 anni, io adesso sono vicepresidente dell'associazione familiare di Piede Fontana e stiamo portando avanti la nostra battaglia per non dimenticare. Immagino. Carlo, grazie mille per il tuo racconto, in bocca al lupo. Anche te, grazie. Ciao, alla prossima, grazie. Andiamo in provincia di Varese da Luca. Pronto, Luca? Luca? Luca, sei tu? Niente, Luca sta ascoltando la radio. Andiamo invece, andiamo da Massimo, perché Massimo ha mandato questo SMS, forse qualcuno se lo ricorderà. L'anno scorso Massimo, quando noi raccoglievamo i racconti per Vendo Anch'io, si chiamava, giusto Tiziano, per Riva del Garda, tra i finalisti ce ne fu uno che poi non poteva venire a Riva del Garda purtroppo, in cui raccontava una storia. Lui vendeva un oggetto che era, credo, un tutore per un braccio, e raccontava una storia che aveva a che fare proprio con la perdita dell'innocenza. Giusto? Giusto Massimo? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Io benissimo, tu? Beh, bene, bene, oggi bene. Senti, ce la riracconti velocemente quella storia? Guarda, te la racconto velocemente proprio perché sennò sarebbe troppo lunga. Bravo. Io ti ricordi che avevo questo vizio insegnato dagli anziani di pescare con le mani sotto i sassi, e questa volta non era andata come doveva andare, ma praticamente avevo mosso un piccolo sasso che mi aveva fatto fracassare un macigno di 7 quintali sul mio braccio praticamente. Sì, sì. Ero rimasto fino al collo con l'acqua in un fiume di montagna e con solo i miei due bambini piccolini, insomma. E quello più piccolo? No, quello più grande, quello più grande, che aveva sei anni e è riuscito, facendo circa 500 metri di strada nel bosco, andare su una strada a fermare qualcuno per dare l'allarme. E io sono rimasto 1 ora e 45 minuti nell'acqua gelida di un torrente con il braccio fracassato prima che arrivasse il vigile del fuoco con l'elicottero a tirarmi fuori. Certo. E quindi mi è cambiata molto la vita in quel momento. Senti Massimo, adesso tu che cosa fai? Guarda, io sono direttore di un supermercato a Lugano in Svizzera. Giusto, è vero, perché ricordo che dovevi venire direttamente da là. Poi scusami, perché non eri venuto a Riva del Garda poi? Non ero venuto perché mi era arrivato un capo da Basilea proprio poco prima che io partissi per venire da te. Insomma, va bene. Massimo, ti ringrazio molto, ci vediamo un'altra volta. Allora, ti aspettiamo, non c'è capo che tenga. Grazie mille. Ciao, ciao buona Matteo, serata. Buon ciao, lavoro, grazie ciao. Anche a te. 349-238-6666, è arrivato una telefonata che non possiamo prendere, ma il messaggio era più o meno questo. Quando avevo tra i... Ah, ce l'abbiamo! Pronto Paolo? Paolo, salve. Ah, buonasera. Ciao, scusami, non avevo capito che abbiamo tempo per prendere l'ultima telefonata. Racconta quando è stato il momento in cui hai perso l'innocenza. Diciamo è un pochettino imbarazzante, ma è rimasto vai. Focalizzato. Vivevo con mio padre e mia madre in una casa molto piccola. Scusami un po', le guardie? No, va benissimo, superato. Le guardie sono i vigili urbani? I vigili urbani, sì. No, per col telefono. Vai, tranquillo. Allora, dormivo nella loro camera da letto insieme a loro, essendo un lettino adagiato, attaccato sì, al muro. Sì. Quella sera in casa c'era stata una discussione tra mio padre e mia madre. Certo, avevano litigato. Diciamo avevano alzato la voce. Sì. Per motivi. Quindi poi siamo andati tutti a dormire, tranquillo. Sì. Io non riuscii a prendere sonno, dopo un po' vidi loro due scattaiolare in cucina. E che probabilmente andavano a fare la pace, Paolo. Ma io questo l'ho capito dopo. Grazie mille Paolo, buona giornata. No, e quello mi è rimasto impresso, quell'immagine, e devo dire, chiudo qui l'argomento, ho odiato mia madre per un po' di tempo, no? Ma poi ho voluto talmente tanto bene che ancora, insomma... Immagino. Però la tua vita è un po' cambiata da quel momento, Paolo. Sì. Grazie sì. Mille. Ciao, alla prossima. Ciao Paolo. Grazie a te, grazie a Paolino Corleone, a Vittorio Mossini, a Tiziano Bonini ed Alessandro Genovesi. Domani, alla stessa ora, io sono qui.